al tour con Ivan Basso. Appuntamento dalle strade del Tour de France in esclusiva su Radio 24 con Ivan Basso. Oggi quindicesima tappa del Tour, arriva a Montpellier, poker di Cavendish, terzo posto per Petacchi. Ivan, ben ritrovato, senti, smaltita la rabbia per la tappa pirenaica? Buonasera a tutti, ma non si trattava di rabbia, era solo una considerazione, uno stato d'animo che non era ottimale dopo comunque una prova impegnativa dove non ero riuscito a fare esattamente quello che io mi aspettavo. Domani al Tour de France riposo arriva anche Lance Armstrong, che ha detto: questo Vauclair, che ancora è maglia gialla a sorpresa, il Tour può anche vincerlo. Tu che ci pedali accanto tutti i giorni, opinione, pronostico che condividi? Che possa vincerlo sicuramente sì, che è anche lui uno di quelli che ha dimostrato sui Pirenei di andare molto bene, ha un vantaggio anche rassicurante, quindi se saprà difendersi come ha fatto sui Pirenei anche sulle Alpi, certamente diventa uno dei favoriti per la vittoria finale, per il podio. Intanto piange un po' il piatto delle vittorie di tappa italiane, siamo ancora a zero, oggi Petacchi non è riuscito a mettere il primo tassello, vedendo le tappe che mancano, quale potrebbe essere l'occasione buona? Ma è difficile, io credo che gli italiani che sono qua al Tour hanno cercato di fare del loro meglio e quindi non si può rimproverare nulla. Per quanto mi riguarda, noi del Liquid Cascheno, delle Osso, oggi ha fatto un bellissimo sprint e tutti sanno il motivo della mia presenza al Tour, quindi io credo che il bilancio lo faremo a Parigi e non a una settimana dalla fine. Allora Ivan, intanto grazie, ti ritroviamo domani nel giorno di riposo. Senti, una curiosità, da Montpellier a Parigi quanto è lontana la Torre Eiffel? Beh, dobbiamo, il Tour va vissuto giorno per giorno, non bisogna pensare alla fine, bisogna pensare in questo momento alla tappa di Gap, dopo penseremo alla tappa di Pinerolo e pensiamo giorno per giorno. Bene, allora a domani Ivan. Grazie, buona serata a tutti e buona domenica.